offerirmi denari, da lontano mi appari, simulare non vu tali strapazzo, ma non vedete Don Bombone un pazzo? No, no, tal non lo credo, sanamente lo vedo operare in altre cose. Un qualche inganno che vi sia convientire, e prima di partir mi vuo chiarire. Certo, per dire vero, egli ci ha fatto un trattamento tale che giudicando dobbiamo che non crede che siamo quelli che siamo. Vuole il cuore nostro e prima di partire si disinganni e sappia qual conviene rispettare una dama. Eccolo, e viene. Maledetti stregoni, ancora siede qui. Come parlate? Sento sul dorso ancora le bastonate. Ma signor Pappone, per chi voi ci credete? Per due che amici siete del demonio, e son le spalle mie buon testimonio. Chi ragionare il vostro? In due parole, o fate che il demonio rendami i miei denari traballati, o voi sarete al giudice accusati. Come? Chi siamo noi? Ci conoscete? Vi torno a dire che due stregoni siete. Non son io il conte Nastri. Voi? Non sono io dunque la contessa. Voi? Da Roma non mi raccomandò l'amico. Voi? Non ci invitasti in casa vostra. Voi? Qual meraviglia è questa, se dubbi alcun vi resta dell'amico comune, ecco più fogli. Siete in errore, oh, vi prendete spasso, ci conoscete voi? Resto di sasso. Che dite voi di stregoni? Che dite di denaro? Perché offerirmi una borsa vilmente? A me offerire un anello perché? Non so che dire, un equivoco è stato, so che fui bastonato. Dunque saranno quegli altri, e come mai? Vi domando perdono, io mi ingannai. Come stata, io non so. Come stata, io non so, ma chiarire, ma chiarire, chiarire mi saprò. Aspettate, non vorrei, perdonate, non saprei, a chi credere dovrò, a chi, dubita posso di voi. Dubita posso di loro, sono certo che il tesoro tutto dice sì e no, no, no, che sì, sì, sì, e no, tutto dice sì e no. Quel che certo è dubitato e che mano bastonato e tesori più non bravo, ed il bravo più non fo, no, no, il bravo più non fo, no, no, il bravo più non fo. Come stata, io non so, ma chiarire mi saprò. Aspettate, non vorrei, perdonate, non saprei, a chi credere dovrò, a chi, dubita posso di voi, dubita posso di loro. sono cento dietro sono tutto dice sì e no tutto dice sì e no quel che certo è dubitato e che m'hanno bastonato e tesori più non cavo e di bravo e di bravo e di bravo più non fo no, no, più non fo no, no, più non fo premierò il mio amore e la mia figlia. Sì, sì, sì, e voi altri cabaloni che facete sinistri voli, attirite via di qua, via di qua, e mi fa piangere cosa ciò, sono ragazzate, rimediarci convien. Come? Fuggire meglio che si può da disperati. Fuggirem tutti due, ma separati. Separati perché? Perché mi basta quel che finora ho seco voi passato. Misero disgraziato. Oh, povera Dorina. Sono in disperazione. Sono in rovina. Siete qui. Siamo qui precipitati. Voi ci avete del tutto assassinati. Buone nuove vi rego. Se vi trovano, le nuove anche per voi saranno cattive. Questo foglio leggete. E chi lo scrive? Leggete e sentite che il vostro genitore vi ha fatto il bel favore per rendervi giocondo di andarsene di trotto all'altro mondo. È morto il padre suo. Certo, certissimo. Giannino, è ver. Dorina mia, è verissimo. Dunque mi sposerete, dunque mi condurrete giorni lieti passare in altro luogo. Lasciatemi però piangere un poco. Lasciate che si sfoghi il poveretto, la natura vorrà fare il suo effetto. Mi consolo con voi, ma vado subito a trovar Don Popone. A giustarla conviene prendergli le monete a lui levate e chieder scusa delle bastonate. Come si potrà far? Non ci pensate, anche in questo l'impegno a me lasciate. Veleggiar, veleggiar secondo il bel con noi dobbiamo, noi dobbiamo, noi dobbiamo nel nostro mare la bussola adoprare, se a seconda non si va, la bussola adoprare, se a seconda non si va, a una testa che tempesta non va bella in mezzo all'onda, si confonda chi non ha la mia grande abilità. Si confonda, si confonda, chi non ha la mia grande abilità, la mia grande abilità, la mia grande abilità. Veleggiar, veleggiar, veleggiar secondo il vento, noi dobbiamo, noi dobbiamo, noi dobbiamo nel nostro mare la bussola adoprare, se a seconda non si va, una testa che tempesta non paventa in mezzo all'onda, che paventa in mezzo all'onda. Sì, sì, con l'onda chi non ha la mia grande abilità. Sì, sì, con l'onda, sì, con l'onda. Chi non ha la mia grande abilità, la mia grande abilità, la mia grande abilità. Possiamo che tutto andrà bene, il mio Giannino. Povero padre, è morto il poverino. Cosa volete far? Chi è morto è morto. Prendiamoci conforto dallo sperar, come sperar conviene, che al fin le cose nostre andranno bene. Non mi posso dar pace. Egli era vecchio, imperfetto, stroppiato, e doveva morir. Mio padre è andato. Anch'io quando rammento mia madre, che per voi abbandonata son tutta appassionata. Ma mi consolo al mio Giannino appresso, e dovreste per me fare lo stesso. Oh, povero mio padre, che tanto buono fu, è morto il poverino, e non lo vedrò più. Oh, povero mio padre, oh, povero mio padre, è morto il poverino, e non lo vedrò più, e non lo vedrò più. Morto e poverino, e non lo vedrò mai. È morto mio padre, non vedo mia madre, ed io cosa farò, cosa farò? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Dorina mia cara, Dorina mia cara, è morta mia madre, è morta e morta mia madre, ed io piangerò. Giannino mio caro, Giannino mio caro, è morto mio padre. Ed io creperò, ed io creperò. Crepare, perché? Rimedio non c'è, non c'è. Tu caro tesoro, vuoi darmi ristoro? Mi puoi consolar, sì, mi puoi consolar. Tu sarai la mia mammina, sarai il mio papà bello, pure lascia la ladrina, furbacchiotto ladroncello. Tu m'hai fatto sospirar, tu m'hai fatto sospirar. hai fatto sospirar. Non più dolore, non più timore, non più tormenti, sana da provar. Non più dolore, non più timore, non più tormenti, sana da provar. Poi che ritorno, come amoroso, sposi godenti, va giù di via. Dolce ritorno, come amoroso, sposi godenti, va giù di via. Sì, sì, va giù di via. Sì, sì, va giù di via. Va giù di via, va giù di via. No, non credo mai più a nessuno. Il conte e la contessa, e poi la diavolessa, loro che mi han carpito, e 100 parnate, e quel chi porta più le bastonnate. In quanto al conte Nastri fu un errore, voi prendesti, signor, un per quell'altro, e per quell'altro l'uno, senza che in ciò colpa avesse alcuno. Circa loro che dite dal diavolo rapito sarà restituito, e in quanto poi al complimento delle bastonate basterà che una scusa riceviate. La scusa non mi serve per levarmi dolor che ancora sento, che mi rendano loro e son contento. Ora verranno i maghi a far l'operazione per la restituzione. No, no, non voglio, piuttosto glielo dono. Non temete, signor, che amici sono. Spiriti buoni, qua comparite, restituite loro di là. Spiriti buoni, qua comparite, restituite loro di là. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Grazie alla vostra benignità, grazie alla vostra benignità. Contento siete, buono tu reso, perdonerete a chi t'ho offeso, per carità. Dice mi doni felicità, dice mi doni felicità. Da voi media licenza, da voi faccio partenza. Buon viaggio e sanità. Voi siate testimonio del nostro matrimonio, che qui da noi si fa, che qui da noi si fa. Voglio sposarmi anch'io, in va venido il mio, in va venido il mio. Giannino vuoi s'appresso, Giannino vuoi s'appresso. E con la diavolessa, e con la diavolessa, Giannino s'unirà, sì, Giannino s'unirà. Tutto va bene? Va bene! Tutte le cose sono aggiustate, le bastonate, chi pagherà, chi pagherà, chi pagherà? Io ho avuto questo si fa.